sono tre storie, ma non è un libro a episodi. Secondo me c'è un filo rosso, è un'unica storia che è articolata. È articolata in maniera molto ampia nel tempo e nello spazio, infatti va dalla Scozia al Marocco, passando per la Calabria. Lascio ai lettori poi di trovare il filo di collegamento che secondo me c'è, che è sostanzialmente nel senso di queste vicende, che raccontano di resistenze in qualche modo, di persone, di singoli o gruppi di persone che non si sono rassegnate alla marginalizzazione a cui, diciamo, le dinamiche della globalizzazione tendeva a schiacciarli o comunque alla marginalizzazione, direi. Del resto, appunto, le periferie, che sono presenti anche nel titolo, sono un elemento di cui si discute molto anche oggi, ma a partire appunto dai processi di globalizzazione si vive diversamente nelle periferie. Direi soprattutto che con la globalizzazione è il concetto stesso di periferia che acquisisce un significato differente, perché non è solamente spaziale, cioè si è abituati a pensare alla periferia come qualcosa che sta all'esterno di un'area centrale, di un nucleo, no? Ma la periferia oggi può essere dappertutto, può essere nel sobborgo della metropoli come in un'area estremamente lontana, così come il centro non è solo Wall Street, non è più solo Wall Street o, diciamo, no, il centro della finanza o Londra, perché cioè può essere centro una potenza asiatica emergente sul piano economico, si sta ridefinendo un po' l'intera geografia mondiale. Probabilmente dobbiamo ridefinire anche le categorie mentali con cui leggiamo questa realtà. Questo graphic novel vorrebbe un po' andare avanti su questa strada, cioè di rileggere la realtà di oggi, che è così frammentata. Infatti anche per questo le storie sono tre, e potevano essere di più, poi bisogna conoscerle, eccetera. Quindi vabbè, io ho raccontato quelle che conoscevo. Sono tre perché sono tante, sono plurali, perché la realtà di oggi, secondo me, è difficile, non si riesce a cogliere in maniera unitaria, ma bisogna coglierla nella sua frammentarietà e ricostruire con un processo di interpretazione, in qualche modo, gli aspetti unitari che si ritrovano spezzettati un po' di qua, un po' di là. Comunque, come dicevi, sono storie di resistenze, appunto tutte e tre, sono storie vere, mi pare di capire. Sì, assolutamente, sì. Una, per dire, la conosciamo qui a Bologna molto bene, perché è la storia di SS Rosarno, e tutti i mesi ci mandano le arance giuste, raccolte con dignità dai lavoratori contrattualizzati in Calabria. Quindi questa è una delle storie, e altre invece sono una che si riferisce a un piccolissimo, marginalizzatissimo villaggio nel sud marocchino, quasi inghiottito dal deserto, dove c'è comunque un gruppo di giovani che non ci sta ad accettare che il villaggio debba essere alla fine della sua storia. E così pure che la stessa cosa succede invece nell'estremo nord della Scozia, dove un uomo da solo da metà degli anni 60 a metà degli anni 70 ha in qualche modo impresso la sua impronta sull'isola che abitava, ed è dove ormai era rimasto da solo ad abitare.